Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno e ben ritrovati da Nicoletta ad un nuovo appuntamento di Obiettivo Salute. In apertura vi porto subito a Lisbona, dove è in corso il congresso dell'Associazione Europea per lo studio del diabete. Tra le novità presentate, una ricerca che sottolinea come la pressione ballerina in chi ha il diabete peggiora le complicanze cardiovascolari. Quindi è necessario che le persone con diabete correggano non solo la glicemia, ma anche mantengano la pressione in controllo ottimale e stabile. A Obiettivo Salute il professor Giorgio Sesti, presidente della SID, Società Italiana di Diabetologia. Sì, è proprio così. Non basta controllare soltanto l'elevazione della glicemia, che è ovviamente il parametro con cui si fa la diagnosi di diabete, che è il bersaglio terapeutico. Ma il diabete è spesso associato ad altre complicanze e a fattori di rischio cardiovascolari, tra cui la pressione. Avere una pressione ballerina, cioè variabile da un giorno all'altro, non è una buona cosa, perché aumenta il rischio di eventi cardiovascolari, per cui occorre non solo controllarla adeguatamente e un bersaglio della pressione averla sotto i 130-90 per tutte le persone con diabete, ma anche evitare che ci siano troppi sbalzi verso il basso, perché l'ipotensione non fa bene, e ovviamente verso l'alto, perché l'ipertensione non fa altrettanto bene. Sulle pagine di Obiettivo Salute vi invito ad ascoltare l'intervista al professor Sesti per conoscere gli esami che una persona con diabete deve fare per tenere sotto controllo la sua malattia. E dal Portogallo torniamo in Italia. Andiamo a Venezia, dove oggi si apre il 29esimo congresso nazionale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, dal titolo 1000 gradini per il futuro dei bambini. Tra gli argomenti di cui si parlerà, la dieta vegetariana nella prima infanzia e nell'adolescenza. Sul nostro sito tutte le informazioni e le interviste ai nostri esperti. E a proposito di bambini, sono state pubblicate recentemente le nuove linee guida su JAMA Ophthalmology. Screening visivo inattendibile prima dei 3 anni. Ma è davvero così? A Obiettivo Salute il professor Paolo Nucci, direttore della clinica oculistica universitaria dell'ospedale San Giuseppe di Milano. In parte è così, nel senso che nell'articolo giustamente si fa riferimento agli screening visivi, quindi l'identificazione delle problematiche prevalentemente refrattive, cioè i difetti di vista, immaginiamo la miopia, l'ipermetropia, l'astigmatismo, gli strabismi. Fare una valutazione troppo presto aumenta in maniera significativa il numero dei falsi positivi. Non è così invece per il test del riflesso rosso. Il test del riflesso rosso va fatto prestissimo, già nel nido, sarebbe auspicabile che farlo fosse già il neonatologo, e che coinvolgesse anche il pediatra di famiglia, che coinvolgesse anche l'oculista eventualmente del reparto, perché quello screening serve ad identificare presto le cataratte congenite, i glaucomi congeniti, i quadri malformativi congenici che non riconosciuti presto sono quelli che poi possono determinare per sempre una pigrizia del bambino. Per oggi è tutto, noi ci sentiamo domani sempre alle 12 quando scocca l'ora della salute, ma se volete possiamo vederci tra pochi minuti con la nostra diretta Facebook. Vi aspetto e intanto buon pomeriggio da Nicoletta.